Benvenuti a Dedicato, bentornati con noi. Allora, io adesso devo forzatamente fare un discorso importante sulla nostra trasmissione e c'è un perché che poi capirete alla fine di questo discorso, ma effettivamente bisogna parlare dei nostri giovani. Perché? Perché il nostro staff è composto interamente da giovani, tranne me direi, ma io sono giovane dentro, quindi questo poco importa. Però effettivamente forse a volte parlano troppo, come se fossero appena usciti da scuola dopo 6 ore di silenzio creativo. Tra loro si sgridano per le parole dette ai nostri microfoni, perché forse non è il caso di dire certe cose in radio, ma no, perché noi diamo spazio ai giovani, Dedicato da spazio ai più piccoli. Parliamo, ragioniamo, raccontiamo, non censuriamo, capiamo insieme come funziona la radio, la socialità. Sequestriamo i telefonini che bloccano il percorso sociale collettivo, ascoltiamo problematiche comunicative dei nostri giovani e parliamo liberamente di quotidianità, forse anche troppo delle volte. Ma se la promessa che abbiamo fatto a loro è di non censurare e l'accordo con loro è che non devono esagerare, noi dobbiamo far sentire la loro voce. È un sintomo di serietà e responsabilità che abbiamo verso una generazione alla quale tolgono sempre più spazi e possibilità. Siamo una trasmissione estremamente ampia, che parla di cultura, di musica, di politica, di sociale, di arte, intrattiene giocando, fa riflettere senza appesantirti, ma per fare tutto questo abbiamo anche dei momenti più lenti e ponderati. Quindi portate pazienza se alle volte i nostri giovani si dilungano in concetti o in chiacchiere che forse a un adulto possono sembrare poco significative, ma per loro lo sono tantissimo, perché è il loro spazio, è il loro momento. Nelle prime 2 stagioni di Dedicato abbiamo avuto ospiti interessanti e in alcuni casi anche conosciuti, per esempio Alessio Boni, Mara Redeghieri, Alan Sorrenti, Ivano Zanotti, Cristian Ginepro, insomma personaggi anche, no? Noti ai più. E poi abbiamo avuto le nostre scuole coi laboratori, coi bambini e i ragazzi, i nostri viaggi che documentiamo come staff della trasmissione e siamo sempre indirizzati a un pubblico attento e curioso, come è quello di questa radio. Il nostro staff è composto dai giovani e noi vogliamo dare a loro lo spazio che meritano. Tutto questo ve lo dico perché anche questa settimana andiamo dai giovani. Torniamo in una classe che abbiamo già conosciuto la settimana scorsa, che è la prima A della scuola Testoni Fioravanti dell'IC5 di Bologna, quindi nel pieno cuore della Bolognina, un quartiere veramente frizzante della nostra città. Bisogna dare spazio a questi giovani. Loro hanno fatto un laboratorio con noi in classe, con la loro insegnante di italiano. La tematica di questo laboratorio è gli alberi. E da lì è nato di tutto di più, quindi noi diamo voce di nuovo a questa classe e nell'immediato futuro daremo sempre più voce ai giovani e cerchiamo di restituirgli quei piccoli spazi di libertà e di creatività che stanno togliendo da altre parti. Radio Città Fujiko è attenta a queste cose e noi seguiamo l'onda di questa nostra radio. alla scuola Testoni Fioravanti, classe prima A. E abbiamo lavorato insieme sulla natura, sugli alberi, ed è un percorso bellissimo che abbiamo fatto con la vostra professoressa di italiano. Quindi cosa succede adesso? Noi abbiamo dei piccoli gruppi in questa classe che hanno lavorato su dei temi specifici. Il primo gruppo che andiamo ad ascoltare è il gruppo che ha lavorato su natura, da dove nasce tutto. Questa è la nostra tematica, giusto? Quindi parliamo insieme di questa cosa, siete in quattro, parlerete tutti. Dove nasce tutto? Nasce il mondo. Natura, quella cosa indecifrabile che ha creato la vita, e di ciò che siamo grati, ma comunque è saggia la natura, ha creato tutto preciso. Tutto ciò che esiste ha uno scopo, anche le zanzare. La natura serve a tutto, per umani e animali. La natura serve per la vita. Noi siamo d'accordo con la natura, a noi piace la natura, noi amiamo alla natura. Ok, ragazzi, quindi secondo voi è nato tutto grazie alla natura, giusto? Giusto, giustissimo. Ok, e oggi come si è evoluta questa cosa? Come siamo arrivati a questo smog, sporcizia? L'inquinamento e le sporcizie che sono state buttate per terra, e soprattutto con il clima che ogni anno cambia a causa dell'inquinamento, e con il caldo che aumenta e... Esatto, e questa cosa, insomma, chi l'ha causata secondo voi? Gli umani. Gli uomini. Già, ogni anno. Le donne. Già, ogni anno, ogni mese. C'è sempre gente che inquina, non va bene. Ok, non va bene inquinare, quindi? Cinghie di ferro. Sì. Ok. Ti ho sentita molto silenziosa. Vabbè, la mascotte quando è in classe sua diventa timida. Hai qualcosa da dire in più? No. Ok, grazie ragazzi. Questo era il primo gruppo che ha lavorato sulla natura e le sue origini. Adesso andiamo dal secondo gruppo, ha affrontato un percorso un po' diverso. Natura, due punti, cosa vorrei? Cosa mi aspetto e vorrei di più, no? Dalla natura e dal rapporto che avete con la natura. Noi vorremmo più piante, meno asfalto, e vorremmo che ci fosse rispetto reciproco tra la natura e noi. Io vorrei che ci fossero più piante, più animali, più maiali, più montagne, più colline e anche più mare e meno terra. Perché più maiali? Cioè, perché più di loro e non altri animali? Perché mi piacciono i maiali. Ah, ok, va bene. Ma non c'è niente da ridere, ragazzi, sono animali intelligentissimi. Io vorrei che tra noi e la natura ci sia un rapporto reciproco dove si possa convivere fondendo le due specie, cioè l'essere umano e la natura, in modo che si possa usufruire delle risorse ampie in questo ambito che è la natura, però vorrei anche specificare che spesso siamo tenuti a usufruirne troppa e quindi anche ferirla. Più i miei pulcini piccoli e cicciotti. Ai. Più piante, aria fresca, più erba, più fiori. Vuoi dirlo in inglese? More plants, fresh air, more greenery, more flowers. Grazie, perché è appena arrivata in Italia e quindi è giusto anche che tu parli nella tua lingua. Adesso andiamo al gruppo 3. E il gruppo 3 invece affronta una tematica altrettanto importante, perché è la natura in relazione agli esseri umani. Quindi come gli esseri umani hanno snaturato la natura oppure l'hanno anche aiutata. Andiamo a vedere cosa pensa questo gruppo. Al giorno d'oggi gli uomini hanno distrutto la natura, ma non solo. Hanno distrutto i ghiacciai, hanno distrutto tutto quello che ci circonda. Hanno distrutto i fiumi e i laghi. Sono stati crudeli tutta la fauna che ci circondano. Ed è per questo che dobbiamo continuare ad aiutare l'ambiente. Ok, quindi quello che dite voi è che gli esseri umani hanno praticamente distrutto tutto quello che la natura aveva creato e adesso noi dobbiamo aiutarli, giusto? Hai detto questo? Giustissimo! Bene, e tu come faresti? Non inquinare. Non inquinare, ok. Riciclare. Riciclare, bravo. Qualcun altro... Non sporcare l'ambiente. La facciamo dire tutto a lui, no? Qualcun altro avrà qualche cosa da dire. Cioè, non buttare le cose per terra. Giusto, comunque riciclare è un'ottima idea, perché comunque tutti i materiali che si possono riciclare è importante farlo per non doverne produrre degli altri e consumarne. Usare meno le macchine o i trasporti pubblici e usare di più la bicicletta. E le proprie gambe, sì, certo, anche. Che fa anche bene, insomma, molto, no? Molto, molto, molto. Tu avresti una soluzione per aiutare la natura? Che noi esseri umani ci dobbiamo sdebitare, abbiamo fatto tanto di brutto, adesso possiamo fare tanto di bello. Ci sono per esempio tante associazioni e tante realtà che comunque tutelano anche gli animali in via di estinzione, che tutelano i nostri mari, fanno dei rilevamenti sull'aria e cercano di aiutarci per vivere meglio il nostro pianeta. Questo mi sembra un'ottima cosa, cosa dite voi? Di ripiantare le piante, di ricominciare tutto da capo. Giusto, giusto, piantare tanti alberi. Costruire case con legno. Di non togliere più alberi dal proprio posto, perché magari loro all'inizio si sentono a casa, però poi quando li trasporti in un altro posto possono anche morire, diciamo. Grazie. L'ultimo gruppo ha affrontato la visione della natura. Gruppo numero 2 ci faceva il cosa vorrei di più. Voi invece cosa non vorrei? Cosa non mi piace e cosa non vorrei più di quello che sto vivendo in relazione alla natura. Ok, vai. Che gli esseri umani non inquinano. Ok, giusto. Che non inquiniamo più. Non vorrei che le persone tagliano tutti gli alberi. Che mangiano gli animali. Che gli animali vengono uccisi. Non vorrei che le persone prendano i fiori solo per la bellezza. Ok ragazzi, e quindi abbiamo qualche soluzione noi per aiutare in più un pochino la natura, giusto? Non inquinare. Perché anche i fiori hanno la vita, non ha senso di prendere solo il fiore per solo la bellezza. Resta lì, è già bello. Ok. Perché ha ragione anche il mio compagno, perché tipo sono come noi i fiori, perché i fiori... Cioè sbocciano a primavera di solito e fanno una nuova vita come noi. Grazie ragazzi. Ok. Bye bye! Una mattina mi sono alzato. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Grazie ragazzi per queste vostre scelte musicali. Ci tengo a specificare che tutti i brani che stiamo mandando in queste puntate con la classe prima A sono scelte musicali dei ragazzi di questa classe, quindi abbiamo avuto la settimana scorsa diverse volontà musicali, diciamo, perché mi avevano proposto più di 15-20 brani, forse addirittura una trentina, insomma me ne sono arrivati un sacco. Ovviamente ne abbiamo dovuti selezionare perché non si possono mandare tutti. in due puntate, però devo dire tutte scelte molto interessanti. Bravi, bravi ragazzi. Adesso abbiamo ascoltato Bella Ciao dalla Casa di Carta, quindi insomma una versione un po' particolare. Ora però io rilancio la parola direttamente ai nostri ragazzi, che hanno fatto un percorso ancora più approfondito perché hanno creato un'intervista. Quindi in classe abbiamo spiegato un attimo come si crea un'intervista, fare delle domande accattivanti ed interessanti per tutti, e quindi non cose troppo personali, ma abbiamo voluto metterli alla prova perché hanno intervistato la loro professoressa di italiano. È la persona che ha ideato questo percorso sugli alberi, di conseguenza è stata intervistata proprio su questa cosa, sulla tematica alberi, quindi diciamo che le abbiamo fatto un po' uno scherzetto perché le abbiamo girato la palla dall'altra parte e lei ha dovuto prenderla al volo e rispondere alle domande dei nostri ragazzi, che devo dire sono stati molto bravi nella creazione, anche quindi nel progettare questa intervista. Hanno tirato fuori degli spunti interessanti che anche lì purtroppo non abbiamo potuto metterli tutti in queste interviste, quindi non li ascolterete tutti, ma in classe c'è stato veramente un confronto molto bello. Cosa le ha ispirato a questo progetto sugli alberi? Allora, mi sono lasciata ispirare da una serie di letture, di poesie e di albi illustrati. Per prima cosa mi ha molto affascinato l'idea che ci possa essere una similitudine tra gli uomini e le foglie, tra le generazioni degli uomini e le generazioni degli alberi. Sono un po' partita proprio da Omero, dalla similitudine che c'è nell'Iliade. E poi anche mi sono lasciata ispirare da alcuni poeti, dai poeti antichi, come da un poeta antico come Mimnermo, ma anche da poeti come Giacomo Leopardi o più moderni come Franco Arminio, che dice che abbiamo bisogno di alberi, di gente che ama gli alberi e che riconosce il vento. Poi abbiamo letto con i ragazzi tanti albi illustrati che ci hanno fatto un po' vedere come vivono gli alberi, ci hanno fatto immaginare la vita delle foglie, ci hanno permesso anche di sentirci foglie, di sentirci alberi e quindi di arrivare anche noi con le parole a trasformarci. Quindi un po' come Daphne che si trasforma per necessità, per sfuggire al suo destino in alloro, così anche i ragazzi hanno immaginato di trasformarsi in un albero, hanno descritto il loro albero, l'albero che sono, l'albero che vorrebbero diventare. Ed è stato un percorso molto, molto bello e anche molto profondo, perché poi ci ha portato anche a riflettere sul senso della vita, perché la vita delle foglie è una vita precaria, nascono, crescono e muoiono, e così è la vita degli uomini. Quindi è un messaggio che un po' ha lasciato degli spunti di riflessione molto, molto significativi. Cosa prova quando vedo un albero? Quando vedo un albero penso che forse è più tranquillo di noi, è più solido, si lascia un po' plasmare dal vento, ma difficilmente cade, sa difendersi, sa chiedere aiuto agli alberi che gli sono vicini, e gli alberi che sono vicino a lui lo sanno proteggere, lo sanno aiutare. Gli alberi sanno prendersi cura gli uni degli altri, sanno collaborare, e penso che noi dobbiamo imparare molto dagli alberi, soprattutto essere interconnessi, a parlare anche senza parole, un po' come fanno loro. Cosa pensi degli alberi tagliati dai boscaioli? Boscaioli? Dai boscaioli. Sì. Mi dispiace un po' quando vedo un albero tagliato, anche se gli alberi tagliati dai boscaioli ci servono. Adesso siamo qui in una classe, già solo guardando la cattedra, che è una cattedra un po' datata, è una cattedra di legno, gli armadietti sono in legno, le porte sono in legno, i libri sono di carta, quindi mi dispiace, però sono utili e li utilizziamo. Da che parte sta? Vorrebbe tagliare gli alberi o curarli con insetticidi se sono malati? O lasciarli al ciclo della vita che prima o poi finirà? Ah, questa è una bella domanda, è una domanda esistenziale. Beh, se possiamo curarli, perché no, allungare un pochino la loro vita, che comunque ha un ciclo, per cui pur sapendo che l'eternità non esiste, però possiamo provare a prenderci cura anche noi un po' di loro. Cosa pensa quando vede i bambini giocare con gli alberi? Mi piace tantissimo vedere i bambini che giocano con gli alberi e se ne vedono sempre di meno, purtroppo. Mi piace vedere i bambini che si arrampicano sugli alberi, che godono della loro ombra, che giocano in un prato con gli alberi. Meraviglioso. Sarebbe bello riacquistare questa dimensione di gioco con loro. Che ne pensa degli alberi di Natale tagliati, quelli veri, non quelli di plastica? Ecco, questo non mi piace. Non mi piace vedere un albero tagliato semplicemente perché debba essere utilizzato come addobbo natalizio. Possiamo farne a meno, potremmo addobbare in altro modo senza tagliare così questo giovane alberello. Potremmo utilizzare gli alberi di plastica come solitamente facciamo nelle case normali, tipo negli appartamenti molto piccoli. Esatto, un albero di plastica ha una vita più lunga e sicuramente... Intervengo, ovviamente riciclandolo sempre e riutilizzandolo ogni anno, non che ne compriamo esatto. uno nuovo, perché sennò andiamo a inquinare il mondo con la plastica, ecco, non ce n'è bisogno. Il nostro albero a casa nostra dura da 25 anni ed è di plastica e va sempre bene. Vedo gente che invece tutti gli anni compra nuova plastica a forma di albero di Natale. Ecco, questo esatto. Non è bello. Avete un'altra domanda? Si trova un albero morto, cosa fa? Difficile rispondere a questa domanda. Certo, un albero secco è un albero che ha finito il suo ciclo, però in realtà è un albero che non è morto, ma non è morto, perché sicuramente ha lasciato i suoi semi e ha dato vita ad altri piccoli alberelli. Grazie prof di queste risposte. Grazie a voi. Ciao prof. Ciao. Ok, e questi sono i saluti della prima A della scuola Testoni Fioravanti dell'IC5 in Bolognina. Ciao ragazzi. Ciao. Ok, salutate gli ascoltatori di Dedicato. Ciao. Un po' più tipo vivace. Cos'è so? Ciao. Ok, grazie. Noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché, ai dimenticati, a Playboy finiti e anche per me, a chi si guarda nello specchio.